Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sui motori 3, 4, 5 allo spegnimento, il via della Gran Premio Australia che parte adesso con Lewis Hamilton, un grande spunto, buono anche Bottas che va all'attacco di Sebastian Vettel, Raikkonen indietro, si attacca proprio a Vettel, Vettel che tiene la posizione, forse con tanti là dietro, tanto fumo con Verstappen che attacca Kimi Raikkonen. Bottas diventa leader del Gran Premio d'Australia con Sebastian Vettel che è lì in staccata tenendosi dietro Verstappen a caldo e tenendosi dietro Lewis Hamilton e c'è un boato impressionante, impressionante per questa posizione di Sebastian Vettel. Verstappen che gli vuole mettere pressione, va a mettere le ruote sull'erba, Verstappen caldo nei confronti di una Ferrari che ha fatto un lavoro straordinario, eccezionale, tenendosi grande Vettel fuori, un grande pit stop e poi Vettel che è uscito e con gomma fredda ha tenuto dietro un caldo Verstappen e soprattutto Lewis Hamilton che adesso vede Verstappen lì davanti. Sentite il sottofondo perché la Ferrari vince il Gran Premio d'Australia, apre così la stagione 2017, Sebastian Vettel, Sebastian Vettel, Sebastian Vettel, lo possiamo dire, domina il Gran Premio d'Australia, un boato incredibile, accoglie questa vittoria, un inverno di silenzi, ma un fragoroso rumore nel conquistare il successo che mancava da Singapore, la festa è tutta rossa, tornano i sorrisi in casa Ferrari. Grande Sebastian, bravissimo, un martello, complimenti. Forza Ferrari ragazzi, questa è per noi, tutti noi, qui in pista, ma anche in Maranello, grazie a tutti, grazie, grande lavoro, grande macchina, con calma, grazie. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, il mattino della domenica aveva l'oro in bocca e la sera abbiamo cenato in un ristorante da gourmet. Tutto questo grazie ai nostri dei motori. La Ferrari che vince il primo Gran Premio stagionale, quello d'Australia, come ormai non più cronaca ma quasi storia, dopo un anno e mezzo che non si vedeva quel benedetto gradino più alto del podio, e ieri sera una gara meravigliosa in Qatar. Credo si sia divertito, mentre Leo Turrini sta camminando verso il ristorante di Lentate dove aveva promesso di recarsi a piedi in caso di vittoria Ferrari, ma adesso sta arrivando. Come ha vissuto questa domenica il vice direttore della Gazzetta dello Sport, nonché edottissimo di motori, Umberto Zappelloni? Ciao a tutti, direttore. È stata, come hai detto tu, una domenica trionfale. Un po' forse la pulina in bocca era venuta, avendo visto un Vettel che in qualifica era rimasto protagonista abbastanza vicino a Hamilton, almeno non lontano come l'anno scorso, quindi la speranza che potesse riuscirci il colpaccio c'era. Poi dopo i primi giri abbiamo visto che era più veloce, anche se con quelle macchine lì sorpassi non se ne vedono proprio, e quindi è riuscito comunque a mettere quella pressione che ha mandato un po' via di testa Hamilton e molto il box, esatto, Mercedes, e quindi ha avuto quella mano che gli ha aperto la porta, però poi ci ha messo dentro il piede e tutto il resto, e quella porta non si è più richiusa. Sì, mi sembra, abbiamo visto il pugno di, ha fatto il giro del mondo, il pugno di Toto Wolff sul tavolo, Toto Wolff che è numero uno della Mercedes, che poi ha ammesso abbiamo sbagliato gara, abbiamo sbagliato strategia, è forse una Mercedes che consuma un po' di più le gomme, la strategia della Ferrari è stata perfetta e direttore, mi sembra che il fatto di avere un muretto, un team anche di meccanici in cui, no, non voglio fare dello sciovinismo, in cui si parla soltanto italiano, abbia aiutato. Vabbè, ha aiutato a restare compatti in un inverno dove non era semplice, perché non si sapeva esattamente che macchina sarebbe uscita dal lungo lavoro in galleria del vento e al computer di Maranello. Sono stati trattenuti i sorrisi dopo le prime prove di Barcellona, perché si temeva che la Mercedes avesse in tasca molto molto di più di quello che in realtà aveva. Il silenzio e il low profile predicato da Marchionne per evitare la figuraccia dell'anno scorso è sicuramente servito, perché è arrivata una squadra molto unita, una squadra che, come ha gridato Hamilton, come ha gridato, scusa, Vettel a fine gara, questa è una vittoria per tutti, una vittoria di tutta la Ferrari, perché era veramente una squadra molto unita. Quindi complimenti al lavoro di Arriva Bene, di Binotto, ma credo che anche Vettel sia servito. Bravo. Senti, mi sembra che si sia un po' ricucito un rapporto che sembrava essersi, non dico logorato perché è una parola eccessiva, ma un po' assottigliato tra Vettel e la Ferrari. Ci ricordiamo il Vettel rabbioso dell'anno scorso, urlare nel microfono delle parolacce nei confronti della giuria di gara, un Vettel quasi sfiduciato, un Vettel che stava quasi prendendo la direzione di Alonso, no? Di quello che sa di essere fortissimo ma non ha la stoffa adatta per confezionare un grande abito. Invito ovviamente anche gli ascoltatori 800240024, oppure scriveteci 349-238-6666. Pardo a fare le sabbiature, le Torrini al ristorante, ma dopo lo becchiamo. Pardo a fare le sabbiature a Dubai, no, ad Abu Dhabi, arriverà dopo le 15 insieme ad Antonello Valentini, con cui parleremo della panchina d'oro data a Sarri, con cui parleremo soprattutto della diaspora dalle nazionali, che è un argomento che mi interessa molto, perché Barzagli ha scritto, come si faceva sulle giustificazioni a scuola, mi assento per motivi familiari. E sì, motivi familiari, dovevo andare a cena con la famiglia, mi sembra sacrosanto, no, direttore? Perché familiare di questo motivo, diciamo che si poteva raccontarla meglio. Si poteva raccontarla, non do la colpa solo a Barzagli, che ha 36 anni e ha tutto il diritto di tirare un po' il fiato, visto quello che ha dato comunque la nazionale italiana. Però credo che l'Italia, intesa come Club Italia, poteva dire semplicemente, visto che Barzagli ha 36 anni, che non si può chiedergli di fare sempre gli straordinari e abbiamo dei giovani da provare in un amichevole, lo lasciamo tornare a casa, lo lasciamo libero. Parlare di motivi familiari, anche per quello che era successo in passato al suo compagno di difesa e di squadra Bonucci. Di club Bonucci ha fatto inutilmente allarmare un po' tutti, sì, hai ragione. Poi tutto il resto lo ha fatto i soliti social, una foto postata con qualche con parecchie ore di ritardo, ha fatto rumoreggiare e gridare a chissà che cosa. Però credo che un po' di chiarezza da parte anche di Club Italia avrebbe evitato ogni chiacchiera sull'argomento. Io credo che non abbia colpa. È un giocatore che non si è mai tirato indietro sulla nazionale e gliene va dato atto e va applaudito per quello che ha sempre fatto in azzurro. Io mi trovo con i social spesso guarda, ma ha ragione direttore, ha ragione mio amico Crosetti. Nel frattempo foto di Rain in pizzeria e sarcasmo su Barzagli in discoteca. Premesso che Instagram dovrebbe essere vietato ai narcisi con più di 15 anni, ognuno nel tempo libero può andare a mangiare, a ballare dove vuole. Amen, sacrosanto. Mi dà una battuta su questo closing del Milan, che sta diventando la più riuscita barzelletta di Berlusconi. Poi ti tengo ancora un attimo per tornare su Vettel, Ferrari, il rapporto ricucito, eccetera. Questa, quella che sembrava a tutti gli effetti una farsa, un'invenzione, sta rivelando essere qualcosa di più concreto. Ieri i nostri cronisti sono riusciti a mettere le mani su delle carte che stanno raccontando un po' quello che sta accadendo attorno al Milan. Abbiamo ancora 14 giorni per capire se andrà tutto in porto. Adesso c'è un po' più di ottimismo anche da parte di Finimes. La vera domanda che mi faccio io è: ma questi riusciranno a garantire un futuro da Milan al Milan? Perché poi quello che conta è quello. Quanto riuscirà il nuovo proprietario a investire nel Milan del futuro? All'Inter hanno trovato dei proprietari che sembrano in grado, dopo l'intermezzo Tohir, di prospettare un futuro interessante alla società nerazzurra. Al Milan dobbiamo ancora capirlo. Certo, hanno avuto delle difficoltà enormi, a trovare i capitali per chiudere il club. A me sembra un'operazione alla Tohir anche più difficile questa del Milan, quindi non più credo difficile sia... con dei tassi di interesse per certe cose che sono ai limiti dell'usura, insomma. Vediamo, vediamo. Allora, ci fermiamo un istante, direttore, ti tengo in linea. 800240024, numero verde, anche di closing del Milan, ne parleremo nella seconda parte del nostro programma. Adesso c'è il traffico. Convocati. Tutti convocati. È stato un weekend fantastico, non scorderò mai. L'obiettivo detto ieri era quello di finire dodicesimo, pochissimo dai punti, quindi dai, sono contento. Adesso anche contentissimo soprattutto per la Ferrari che è ritornata nel primo gradino. Questo è Antonio Giovinazzi, tra l'altro direttore Umberto Zappelloni, dal 2011 non vedevamo un italiano in Formula 1, all'epoca Liuzzi e Jarno Trulli, e ieri abbiamo visto che non solo la macchina ma anche la scuola Ferrari funziona. Sai che abbiamo in linea, direttore, non le autorità che è ancora a pranzo, ma Vito Giovinazzi, il papà di Antonio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Direttore della Gazzetta Umberto Zappelloni. Buongiorno, so se... complimenti, perché prima della scuola Ferrari c'è stata la scuola di papà, insomma, che lo ha messo sui kart e gli ha permesso di far esplodere il suo talento. La Ferrari è arrivata a raccogliere il prodotto quasi finito, dopo che l'anno scorso aveva vinto in GP2, insomma, quindi... Adesso speriamo che lo accompagni alla carriera che merita, perché ha dimostrato di meritare il posto che gli è arrivato a sorpresa sabato mattina. Signor Vito, ha sentito il direttore, vice direttore della Gazzetta? Ha detto che praticamente ha fatto tutto lei? No, vabbè, diciamo che il talento c'è. Io sono stato un pazzo a metterlo sul kart a 2 anni e mezzo, dove ha iniziato a girare col kart. Sì, 2 anni e mezzo, ho anche dei filmati che poi un domani posso anche tirare via. 2 anni e mezzo girava, a 4 anni gli ho comprato un kart 50, dove diciamo a 7 anni si fa il debutto ufficiale a livello agonistico, no? Sì. L'ho portato in pista dove giravano gli altri ragazzi nel campionato regionale. Ma quindi, come mai tutto questo? Quindi nasce dalla sua passione, no? No, è una passione di Antonio da piccolo. Lui locava il simbolo delle macchine alle persone. Tipo, io avevo un BMW, diceva papà, da lontano, come vedevi il simbolo della macchina, locava la persona in cui aveva la macchina. Quindi, ma davvero? Poi un giorno avevo deciso a 3 anni. Perché lui è di dicembre, a Natale, di comprargli una macchina elettrica, una Ferrari. Sì. Niente, mi trovavo in posta qui a Martina, ho trovato il titolare di una pista di Martina Franca, dove parlando lui mi fa: no, è inutile che gli compri una macchina, ti do un kart, un 38, un puffo. E di là è nata. Poi lui è iniziato a girare nel piazzale qui di casa e poi man mano poi lo portavo in pista dove divertiva a girare. Te capì, dire tour, come dicono a Milano? Sono stato un pazzo, però consiglio di poi, sì, posso ammetterlo. La sapevi questa storia, direttore? Sì, sapeva, meno male, perché comunque la sua pazzia ha portato comunque Antonio a innamorarsi dello sport che sta facendo, cosa che invece in altri sport, parliamo di tennis, magari non è capitata. La passione di tanti padri ha portato i figli a odiare quello sport, invece Antonio sta amando questo sport e sta avendo i risultati che merita. Sì, io... le dirò di più, la domenica quando lui non faceva le gare da piccolino, aveva 8 anni, si andava alla Conca a Lecce per gli allenamenti, no? Io alcune volte non nascondo che ero stanco per una settimana pesante di lavoro, lui seduto dietro la porta della camera a letto che piangeva: papà, dobbiamo andare a girare, papà. Non l'ho mai, ma dico mai, obbligato. Era lui che molte volte mi spingeva, diciamo, a portarlo nonostante tutta la settimana di lavoro, esatto. Bisognava andare sulla pista. Esatto, sì. Senta, con tutto il bene che vogliamo a Verlaine, gli auguriamo di guarire presto, ma con calma. Cioè, io spero che in Cina, insomma, Verlaine decida di prendersi un'altra settimana di riposo. Facciamo così. No, chiaramente noi non speriamo questo. Per carità, l'opportunità va bene, però non di certo speriamo questo. No, assolutamente no, ma semplicemente che stia a casa a riposarsi. Avrà anche una bella fidanzata, Verlaine, come tutti i piloti, che stia a casa a riposarsi una settimana in più, che si prenda una vacanzina. Grazie signor Vito. Umberto Zappelloni, torniamo invece alla Ferrari, a quel rapporto ricucito con Seb Vettel. Ti dicevo, le considerazioni te le ho fatte prima, insomma, mi sembrava un po' sulla via di Alonso. Che Vettel aveva avuto una fine stagione molto nervoso, lo abbiamo sentito anche via radio spesso, aveva avuto anche la tentazione, probabilmente è stato uno di quelli che ha telefonato a Toto Wolff appena Rosberg ha dato addio al mondiale, perché forse la tentazione di saltare al volo sulla Mercedes l'è passata anche davanti ai suoi occhi. Poi probabilmente un bel lavoro fatto durante l'inverno, fatto da Maurizio, arriva bene, ma probabilmente anche dal presidente Marchionne lo ha portato a tranquillizzarsi e vedere crescere attorno a sé una macchina che poi dava quei risultati prima al computer, poi gli ha dati buoni a Barcellona, lo ha tranquillizzato, l'ha confortato, perché certo lui aveva il terrore di ritrovarsi ancora con una Ferrari come quella dell'anno scorso. Beh, ma certo. E quindi di buttare via un'altra stagione. Era umanamente comprensibile, perché gli anni passano per tutti, di quello che è capitato. Senti, a Vettel, ad Alonso. Direttore, il mio pensiero lo conosce, parliamoci chiaro e senza peli sulla lingua. Fernando Alonso ha buttato via praticamente una carriera in Ferrari, 6 anni sono nel fulcro, nel cuore della sua carriera, li ha buttati via, e rimane, secondo me, vabbè, adesso gli anni passano per tutti, questo è chiaro, evidente ed è una banalità, però rimane sempre, forse mettiamolo insieme ad Hamilton e a Vettel, il pilota più forte che c'è su un'altra macchina. Avrebbe vinto altro che 2 mondiali. Avere solo 2 mondiali, è un falso storico, una follia degli albidoro. Però va detto che Alonso, almeno in Ferrari, aveva avuto le sue chance, ha avuto 2 anni in cui è arrivato secondo, e in un anno ci ha messo anche qualcosa di suo, perché in qualifica Alonso è sempre mancato qualcosa, però è arrivato veramente vicino al mondiale. Lì è stato un moretto Ferrari a fargli perdere il primo mondiale. Poi nella carriera di Alonso, purtroppo per lui, ci sono sempre tante scelte sbagliate. Lui è arrivato in Ferrari forse nel momento sbagliato, e poi se n'è andato dalla Ferrari andando a scegliere una macchina sbagliata, in un momento molto più sbagliato, molto più sbagliato. Adesso insomma, forse se c'è ancora la Minardi si divertirebbe di più Alonso. Ed è un peccato, perché è un pilota dal talento infinito. Ma rimane a tutt'oggi, secondo me, nel Gotha. Un'ultima cosa, direttore. Allora, adesso siamo tutti qui orgogliosi, pieni di sazi, con il petto gonfio, eccetera, eccetera. Però io voglio anche qui andare un po' come i salmoni, calma e gesso, perché questa dell'Australia è una pista strana. Perché dalla Cina il 9 di aprile, altra sovrapposizione che trovo abbastanza bizzarra, quest'anno 6 sovrapposizioni tra Moto Mondiale e Formula 1, magari un po' di raccordo tra le due grandi entità dei motori poteva essere trovato. È vero che una corre in Argentina e l'altra in Cina, però se si evitano le sovrapposizioni è meglio, dal mio punto di vista. Assolutamente d'accordo. Per arrivare a questo, è un inciso, però in Cina capiremo qualcosa in più. Sì, perché la pista di Melbourne non è una pista che dà delle risposte chiare e sincere sulle macchine, almeno così è sempre stato in passato, anche se è vero che è una pista dove 21 volte è scattato il mondiale, 13 volte chi ha vinto lì poi ha vinto il mondiale. Io sommerei a questo i risultati di Barcellona, pista invece vera, pista che dice delle realtà sulle macchine, e quello che abbiamo visto poi a Melbourne ci racconta che Barcellona non è che si stiano nascondendo molto, che quei risultati sono stati abbastanza veritieri, quindi ci conforta il fatto che la Ferrari si sia trovata veloce e molto gentile sulle gomme a Barcellona e poi anche a Melbourne, quindi questo è incoraggiante in prospettiva. In Cina avremo la conferma al 100% che questa è una Ferrari che può lottare per il mondiale. Ho le sensazioni, sommando appunto le prove di Barcellona, le prove di Barcellona, e la corsa di ieri, adesso ci serve il terzo indizio che fa la prova. Esattamente. Grazie direttore. Grazie a voi, buon ciao, pomeriggio. Ciao, buon lavoro Roberto a tutti, Zappelloni. Ciao. Vado con gli ascoltatori. Mario, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, buongiorno. Grazie per la gentile ed educata compagnia di ogni giorno. Troppo buono. È la realtà. Volevo chiedere una cosa, premetto che sono fermamente juventino. Fermamente. Fermamente juventino da 49 anni. Mi sorge una domanda che magari non vorrei fosse cattiva la mia interpretazione. Speriamo. Però questa storia del closing del Milan, mi permetta, siccome sembra questo tira e molla... Più che mi permetta, mi consenta. Sì. Mi consenta. Io chiedo questo, non è che, ripeto, può essere una cattiveria, ma non è che Berlusconi sta solo facendo entrare in Italia dei soldi suoi? Sì, questa non è la sua cattiveria, ma è la Vox Populi, neanche recentissima. È chiaro che non è come portare... Mi viene in mente la pubblicità di quelle famose caramelle dove c'è il contrabbandiere, ce l'ha presente? C'è il contrabbandiere che ha... Sono un pubblicitario, perciò ho presente. Ecco, che ha il baule pieno di queste caramelle, alla dogana svizzera gliele sequestrano tutte. Non è che funziona esattamente così far entrare 200-300 milioni di euro. Ci sono normative, controlli, normative antiriciclaggio, eccetera, eccetera, eccetera. La verità è che sono stati Fassone e l'avvocato Agostinelli, che ci ha promesso di essere nostro ospite nei prossimi giorni, a trovare questo ulteriore investitore che è la Elliott, che è una banca d'affari americana, che presterà all'operazione un 300 milioni di euro, che non sono esattamente noccioline, a un tasso di interesse, ma qua sarà più preciso Belinazzo, io vi riporto le notizie, al tasso di interesse dell'11%, che non è esattamente un tasso di interesse bassissimo, anzi al limite legale fissato negli Stati Uniti, e lo stesso fondo Elliott che ha determinato, ora non voglio portare sfiga a nessuno, però è cronaca, è storia recente ed economica, che ha determinato il secondo default dell'Argentina con la storia dei bond. Cioè, insomma, è gente che ti dice: volete i soldi? Va bene, vedi presto, ha un tasso di interesse estremamente elevato, e con questi soldi si chiuderà l'operazione facendo una raccolta tra i soldi che ha messo insieme il signor cinese, i soldi che arrivano da quest'altra operazione. Alla fine il 14 si farà sto closing, credo, ma anzi ne sono certo, perché poi abbiamo un ospite nella seconda ora che esprimerà tutte le perplessità dei milanisti. Credo che tutto questo non basti a dissipare dubbi. Simone, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare del closing del Milan, no? Mi sembra assurdo che ancora qualcuno tira fuori e se ne parli della storia del rientro dei capitali con il presidente del Milan, che sarebbe proprio accerchiato, ma farebbero festa se fosse vero questa cosa. Quello che mi stupisce è che quanto Tuir ha comprato l'Inter, che poi ci sono state inchieste giornalistiche su come aveva eseguito la trattativa con diverse scatole, diciamo, come le chiamavano, sì. Nessuno ne parla. Scatole cinesi, non a caso. Disturba il fatto che lo pagano così tanto, perché Zagnelli fece una battuta sul fatto che il Milan costava troppo. E poi un'altra curiosità: visto che neanche la Juve è più italiana, come la Ferrari non è più italiana, che ha sede legale in Olanda, che lo mettono, come quanto ieri ha vinto la Ferrari, si è messo lì in italiano, che non ho visto, o lì in olandese come costruttore. Grazie. Ma questo non ne so rispondere. Questa battuta non l'ho capita benissimo, quanto al resto, insomma, le perplessità rimangono, perché è un'operazione che quella del Milan, che a me ricorda in effetti quella della Toiriana. Io mi aspetto che questo sia solo un traghetto che il Milan prende per finire verso altri lidi, che possiamo augurare al diavolo e a tutti i suoi tifosi sia un traghetto serio come quello che ha trovato l'Inter con Suning. Ci fermiamo, 800240024 è il numero verde, dopo la borsa ci ritroviamo per parlare ovviamente di quanto abbiamo visto ieri sera in Qatar con Valentino Rossi, che non ci credevamo, ma podio! Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Tutti convocati. Prima partenza della stagione, partiti, partito molto bene, mi sembra Andrea Dovizioso e anche Jorge Lorenzo, aia, attenzione lì a Zarco, alle prese con Redding, va via come un fulmine, Andrea Iannone seguito da Maverick Vinales. Mannaggia, Iannone è generoso, quel tanto no, che basta, ne aveva. Si prova, frena, eccolo, fortissimo, strizza il freno come una spugna, Andrea Dovizioso fa sgocciolare l'impianto Brembo, ma Vinales trova spazio, si tira dentro, la fa girare, si riattacca al gas. Valentino Rossi che si sta avvicinando ad un Dovi con la gomma stanca, oggettivamente garone di Dovi, riesce ancora a stringere bene la traiettoria al Dovi che si riavvicina lì davanti a Maverick Vinales. Maverick Vinales che va a vincere la prima gara della stagione, come sembrava scritto, come è scritto, Vinales c'è, Vinales c'è, complimenti grandi, Vinales c'è davanti a Super Dovi e a Super Valentino che portano a casa il podio. Beh, The Voice, Roberto Ungaro. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Senti, come una cena da cracco, Bastianic, Barbieri e tutti questi qui, come un concerto dei Nirvana che abbiamo sentito in questa splendida copertina. E la gara di ieri sera è stata così. Più forti della pioggia, non poteva iniziare meglio, ci ha fatto temere all'inizio, però alla fine spettacolo doveva essere, spettacolo è stato, l'avevamo detto Carlo, era una delle stagioni più spettacolari sulla carta rispetto al passato, e così è stato. E che dire, Vinales, che hai visto la lucidità, l'intelligenza, la maturazione, perché è partito cauto però poi ha messo il turbo che aveva, lo ha dimostrato tutto l'inverno e poi ha fatto vedere quello che è stato capace di fare, e comunque maturo nel confronto, nella battaglia, perché non lo sapevamo, però ha saputo amministrare, ha saputo studiare il Dovizioso e l'ha infilato dove doveva infilarlo, e alla fine 25 punti meritatissimi. Grande Ducati, perché si è confermata solo con uno, però Lorenzo sì, quell'altro sembra in crisi perpetua. Sì, l'altro ragazzi è sul banco degli imputati, anche perché il suo contratto, quanto guadagna lo sappiamo. Il rapporto è 12-1 se facciamo il confronto con Dovizioso, ma Dovizioso è un onestissimo lavoratore del manubrio, se l'è cucita addosso quella moto, e quindi non c'è da stupirsi su quella pista. Se non avesse avuto una gomma morbida, alla fine poteva quasi fare il colpaccio, sì, perché sì, è vero. E poi che dire, lui che ogni volta ci stupisce, gli diamo del vecchietto, cantiamo De Profundis, esatto, troviamo i titoli di coda. Per lui vale, è un animale da gara. E ogni animale da gara, è un animale da gara, non c'è niente da fare. È partire una... in quarta fila e poi essere lì davanti e battagliare, finire a podio, che dire, non ci sono parole. Perché alla indovina, fine... indovina che abbiamo in linea, Roberto. Lui, il grande, il nostro Carletto. Esatto. Allora, Carletto, è lui. Una domanda, Carlo. Dopo aver ciao ragazzi, ciao Carletto. Ciao Carlo. Senti, ma ciao dal Qatar. Quale master di comunicazione hai fatto fare a Iannone dopo aver sentito le sue dichiarazioni a fine gara? Hai visto? No, guarda, chi non si merita questo da me? Hai visto? Guarda, se ho fatto un capolavoro, spero che però non succeda più, perché guarda, francamente, con le potenzialità che ha questo disgraziato, nel senso buono, allora, di pilota, allora Carletto, da buttare via, ragazzi, la domanda via di Ungar è stata meravigliosa, ma da 0 a 10 quanto sei incazzato? Molto, molto, perché guarda, ti dico la verità, 10 lode direi, con abbraccio, come si dice in università, ti dico la verità, francamente lui ha questa mania di correre attaccato ai piloti. Ieri c'è stato un errorino di Marquez, ma non errorino, Marquez si era guidato malissimo, l'abbiamo visto tutti, sì, poi ha sbagliato anche la scelta della gomma sulla linea di partenza, no? Bravissimo, e guidava male. Quando gli stai attaccato dietro, ha avuto un'esitazione, Marquez ha sbagliato una curva, ha toccato il freno, tu dietro quando stai attaccato, gli ha toccato appena la gomma, è andato via. Se tu stai a una piccola distanza, oddio, di quasi è facile dirlo, poi magari in pista non lo fai, però tutti lo vedi come fanno, è difficile. Lui ha questa mania di aggredire, attaccare, fare, stare attaccato, è chiaro che succede poi il patatrac. Carlo, se no ieri è una di quelle gare belle per lui. In una parola, Carlo, gli chiude la vena, sì, ed è il motivo per cui Belen è innamorata di lui, li vuole ignoranti. Li vuole ignoranti. Io non so, quello di Doraggi, ma non solo ignoranza, penso. Comunque, però voglio dire, vorrei che schiudesse anche a me la vena, cari ragazzi. Comunque, lasciamo perdere. No, non lasciamo positivo perdere. Il look di, ragazzi, il look di Belen ieri che ha fatto molto discutere. Parliamone. Ma io ce l'avevo vicina, ragazzi. C'era la griglia di partenza con me. Ho visto le foto che mi hanno tagliata a metà, sembrava metà perna e Belen intera. Però ti dico, ti posso garantire che starci vicino è un piacere. Ma non l'avrei mai detto. Carlo, con la borsetta, che io stessi vicino a Belen, sono d'accordo con te, Carlo. Ma dimmi in quella borsetta cosa potrà tenere in griglia di partenza, perché la borsetta è fantastica lì in quel luogo. Oh, ragazzi, nelle borse delle donne c'è di tutto, che se quando le rovesciano, no? Quando le rovesciano trovi di tutto. E loro non trovano niente, ma esce di tutto, esce quella roba da male. Vabbè, dai, comunque guarda, io ti dico la verità, io non è certo. Se non faccio stupidaggini a palate di talento da vendere, forse più degli altri. Io ci credo ancora, ho fatto una scommessa, ma ragazzi, se la perdo rimarrò ombra che di tela, però io l'ho fatta, la continuo a fare. Fai bene. Comunque abbiamo visto una gara, ragazzi, meravigliosa. A me Ungaro è uno di quei piloti che piace, perché a noi piacciono gli irregolari, dai, a noi piacciono gli irregolari. Ma chi è che ti emoziona oggi? Chi è che ti emoziona? Ti emoziona? C'è Marquez. No, Brandino, ma no. E Iannone. Sì, ma però che emozione, come corre. Anch'io non lo amo, lo sai quante battaglie abbiamo fatto radiofoniche, io televisive e sui giornali, perché lo consideriamo quello che è. Ne parlavo ancora ieri con Valentino, guarda, in sala stampa. Però ti devo dire che ti emoziona quando gareggia. Sì. Fa quei sorpassi uno contro uno, lo fa Iannone, botte da Orbi, lo fa Valentino. Sono un po' i Cracciolo, ci metto anche Cracciolo. Sono quei piloti che ti emozionano più degli altri. Sì. Cioè Vignales è fortissimo, ragazzi, perché mancherebbe altro, tanto di cappello, uno che arriva e fa queste cose. Però non è che ti emoziona. Nell'uno contro uno è pulito, è un po' il clone di Lorenzo dei vecchi tempi, dico io, no? Il clone di Lorenzo dei vecchi tempi. Come Dovizioso, ottimi piloti. Ecco, Dovi secondo me quest'anno bisogna starci molto attento, perché ha due occhi che sembrano quelli che non ha mai avuto. Dovizioso? Non ha mai avuto quegli occhi lì. I ragazzi, attenzione, perché lui c'ha tre cose positive. Primo, è maturato tantissimo. La guerra con Iannone non sembra mai servita. Si è fatto capire alcune cose, credetemi. Sì. Secondo, quella moto ce l'ha un pugno, la sua. Sì. Terzo, inaspettatamente o aspettatamente, a seconda dei punti di vista, lui è il numero uno della Ducati. Sì. Perché quest'anno Lorenzo zero. E su queste tre belle perle di Pernat risponde Roberto Ungaro una dietro l'altra. State con me, ragazzi, ancora 5 minuti. Carletto, stai lì, non ti muovere. Non ti muovere, non ti muovere, traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presento. Tutti convocati. A parte che mi farò dire da Carlo Pernat cosa si sono detti con Valentino Rossi ieri dietro le quinte. Roberto, però rispondi a queste tre perle che ci ha lanciato Carletto. Allora, Carlo Pernat, la polpa di Sinterno. Allora, non sono tanto d'accordo con te su Maverick quando dici che nel corpo a corpo non è così audace, perché sappiamo tutti che lui è un bastardo dentro in senso positivo, parlo di resti, eh? Sappiamo la sua estrazione, la sua famiglia, chi è, lui ha un solo obiettivo, non gli frega niente di niente, vuole solo arrivare lì, cioè alla vittoria. E poi come stile di guida, perché se Lorenzo è un compasso tondo e pulito, mentre invece Maverick è visto come entra, come butta la moto la corda, come spigola e come riesce a soffrire meno la gomma nuova rispetto agli altri, perché mentre gli altri sì, sono ancora attaccati al freno, entrano dentro e la sentono muoversi, lui invece stacca dritto e poi lascia il freno e la butta dentro, e questo gli dà un grande vantaggio perché riesce a, ecco perché è in crisi anche Iannone, confermalo Carlo, perché è la gomma davanti. Sì, poi ti confermo tutto. Sì, guarda, ti confermo delle cose, che quest'anno le gomme che sono state portate in Australia, le seconde prove, ti ricordi? Sì, sì, l'anno anteriore. Benissimo. Esatto. Bravissimo, anche tutti gli altri. Allora, esatto. Quella Australia, quella gomma anteriore, ha messo in crisi i piloti cattivi che hanno la staccata molto, molto forte, e sono Crutchlow, Iannone, Marquez e in parte Valentino. Anche però Valentino. Lui, dall'alto, bravissimo, in parte Valentino. Questi quattro stanno patendo più degli altri. Io ti dico di Maverick, io sai perché ho detto questo e te lo ripeto, perché fino all'anno scorso lui nell'uno contro uno non era niente. Vero, e se ci fai caso, lui ha vinto una gara andando via come clone di Lorenzo, te lo ricordi, in Australia. Sì. Mentre in Barcellona aveva fatto 4 sorpassi e 4 volte è andato largo. Allora io mi ero fatto la domanda, ma l'uno contro uno dov'era? Forse era il discorso Suzuki. Perché questa moto non ti permette, quando stacchi ti fa un po' di chattering, allora quindi l'uno contro uno diventa difficile, vai fuori. Senti, allora lui con la Yamaha fa una cosa diversa, ed è uno che fa l'uno contro uno, l'abbiamo capito adesso. Appunto. Carlo, comunque... per chiudere, no, Roby, voglio sentire, sono curioso di sapere cosa ti ha detto Valentino dietro le quinte della premiazione. Ma Vale, prima cosa mi ha detto, prima cosa di a quei disgraziati che dicono che sono vecchietto, che non capiscono niente. Di andare a fare in culo, sì, va bene. Eh sì, okay. È un affare del genere, ecco. L'hai tradotta a te da riminese. Sì, io allora, l'ho detto in francese. La seconda, sì. Bravo, la seconda parlavamo di due spagnoli, che dicevamo che uno è un po' idiota e l'altro è un figlio di brava donna, fate voi chi è. Carlo, ci sentiamo prestissimo, eh? Ah, senti un giorno che sei con Iannone, facci sapere, va, così facciamo un discorso, facciamo una roba a tre. Sì. Io te a quattro, sì. Io te Ungaro e Iannone, facciamo una roba a quattro. Non a tre, sì, forse a tre, mi raccomando. No, forse a tre, io avevo pensato a una cosa diversa. Carlo Genta, conosco Carletto la volpe del deserto, devi specificarli quando dici a tre. Ciao ragazzi, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, grazie Roberto, ci sentiamo venerdì. Alla prossima. E alla prossima, che sarà venerdì, perché è venerdì, ogni venerdì appuntamento con i motori, dalle 15 alle 15.30 con The Voice Roberto Ungaro, The Voice Leo Turrini e un sacco di ospiti. Leo Turrini, che oggi non solo non era in coda sulla Pero Cormano, come molti possono pensare, ma era impegnato in una maratona verso il ristorante di Lentate, dove è andato appunto a piedi a pranzo, perché così aveva promesso. E io mantengo sempre gli impegni, maestro Genta, e devo dire che è stato un pellegrinaggio felice. Tra l'altro io pensavo che i tuoi amici delle due ruote potessero svelare questo dilemma della caduta di Iannone, no? Sì. Perché tu sai che circola sui social questa storia, che siccome Belen quando lo vede gli dice sempre stenditi, e allora lui avrebbe preso alla lettera questo appello, invito, sollecitazione, buttando via una possibile vittoria, ma... No, ma sai cos'è? Sai cos'è, Turrini? È che a Iannone, cioè a Belen, fanno sangue gli uomini cui si chiude la vena, cui gli uomini spericolati. Ah, allora, ma ce l'ha spiegato Pernat prima. Ma scusate, ma io devo rientrare anche a piedi dall'entate, quindi avevo perso la connessione con Radio 24. Però volevo dirvi che insomma. Erano molti anni che noi ferraristi a inizio campionato non avevamo un lunedì così felice, no? Certo. Era dal 2010 addirittura. Inoltre voglio fare notare all'amico e maestro Carlo Genta, l'omero della radio in Italia. Omero, mi mancava. Se uno prende la tabella vincitori del Gran Premio d'Australia, qua del Gran Premio d'Australia a inizio campionato, fate attenzione. Sì. Solo tre volte in una ventina d'anni chi si è aggiudicato questa gara poi non ha vinto il titolo iridato. E poi... guardate bene, i tre sì. Non erano esattamente, pur essendo cari amici, dei fulmini di guerra, perché vi sto parlando di Andy Irvine, 1999. Poi vado a memoria, 2003, adesso non sono sicuro se vinse Coulthard, ma insomma, e nel 2006 che vinse, salutiamo cosamente, Giancarlo Fisichella con la Renault. Per il resto, vinci in Australia e hai il titolo iridato, in the pocket. Leo Turrini, punto primo, se poi se la prendono con me, io li mando tutti a casa tua a Modena. Ma io ho detto che è un auspicio. La Gina Ferrari se ne va in Cina. Punto secondo, io non dimentico che venerdì hai esordito con un allora deciditi, allora io voglio, però, come si usa fare in questa trasmissione, che credo raggiunga persino i livelli di Fox Economia di Marisoni, che saluto con grandissimo calore, no? Io venerdì ho detto: attenzione, si mettono le macchine sull'asfalto, pronti via, Gran Premio d'Australia, prove libere. Hamilton aveva staccato Vettel, anche perché, guarda, adesso farò un discorso serio che mi riesce difficile, ma tenterò. Allora, per quello che noi abbiamo potuto capire nella meravigliosa domenica australiana, con queste macchine così larghe, con gommoni da camion, con un'efficacia aerodinamica che le rende velocissime in curva e quindi rende impossibile prendere la scia per chi è dietro, non si vedranno sorpassi in pista, diventa fondamentale il sabato. Certo. Cioè, dove la Ferrari deve migliorare è la prestazione sul giro secco. Certo. Perché a Melbourne siamo stati nella gestione del tutto, tipo come Ferrari, più bravi di Mercedes, ma andrà sempre così. Occorre che Vettel e anche il mio coetaneo Kimi Raikkonen, maldita l'introduzione, è vero, dell'ora legale, possano avere anche al sabato una possa essere competitivi anche al sabato e non solo sul passo gara. Leo, ci sentiamo venerdì, fisso appuntamento, anche questo venerdì, tutti i venerdì appuntamento con i motori, con Leo Turrini, con Roberto Ungaro, con un sacco di ospiti. Ci fermiamo per il GR, dopodiché la diaspora dalle nazionali, partiti tutti, non rimane più nessuno, è andato via anche l'allenatore Blind, giustamente, e poi di nuovo closing del Milan. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Eccolo qua Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, Turrini mi ha chiesto di chiederti se sei rientrato dalle sabbiature. Sì, sto tornando. Poche ore sono operativo. Come sta Turrini? Sta molto bene. È contento. Puoi immaginarti come sta Turrini, Pierluigi. Entusiasta, il signor Turrini. Non sta più nella pelle. La Ferrari di Vettel fermo fra ferro e cornato. Senti, ti faccio sentire il signor Panchina d'Oro. Vai. Eccolo. La giuria è fatta da allenatori, quindi il voto ti arriva direttamente dagli allenatori. Riconoscimento dai colleghi è roba importante, quindi dà una grande soddisfazione, dà gusto. E poi per la carriera ci vanno i punti, non i premi, quindi non penso possa influire. Questa è una gratificazione personale fortissima. E mi dà gusto per una volta arrivare davanti a Max, questo è importante. Battuto di tre incollature Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri per la Panchina d'Oro. Saluto anche Antonello Valentini. Ciao Antonello. Ciao, buongiorno. Non sapevo che si facessero le sabbiature anche al cervello, Pardo. No, Valentini, mi sta molto calmo, non fare ragionamenti a prima. Come va? No, bene, questa cosa di Sarri come la... Io sono... Ma senti, secondo me è un premio meritato, perché Sarri ha dimostrato di interpretare il calcio in maniera moderna, con grande realismo. A me piace meno nei comportamenti fuori dal campo, lo dico con grande franchezza. E aggiungo anche che secondo me un grande allenatore non può certamente sacrificare la squadra alle caratteristiche di un solo calciatore, parlo per esempio di Gabbiadini, però un bravo allenatore deve saper utilizzare meglio grandi giocatori inserendoli nella sua squadra. Invece avresti votato Allegri, diciamo. Io avrei votato Allegri, sì. Sì, mi sembra di sentire De Laurentiis, Antonio. No, perché avete dei buoni avvocati, perché parte la querela, avete dei buoni avvocati. Pardo, presto uno dei suoi. Mi piace quasi dirlo, che sono perfettamente d'accordo con questo figlione, nel senso che sono d'accordissimo sulla qualità, sto scherzando, sulla qualità del gioco di Sarri, che secondo me merita il premio, nel senso che io penso che sia stato scelto per quello che di innovativo ha saputo fare, no? E quindi penso che da questo punto di vista il premio sia assolutamente strameritato. E poi posso aggiungo anche che è bello che qualcuno che viene dalla gavetta improvvisamente riesca a far così bene, perché è la dimostrazione, chissà quanti altri Sarri ci stanno in giro, non parlo solo di calcio, no? Chissà quante altre persone in vari settori della vita non hanno magari la possibilità, ne arriva uno su 10 ad avere uno su 1000 ce la fa, dai, non fare già i morandi. Ma voglio dire, è una secondo me è una metafora importante, sì, questa, sì. Si dice delle cose. Detto questo, sono d'accordo che fuori dal campo, e non parlo soltanto di dichiarazioni, parlo anche proprio di gestione. Di gestione tutto ciò del gruppo. Non è strettamente legato ai 90 minuti, Sarri possa ancora crescere, gli auguro ovviamente di crescere. E avrei votato Allegri, perché Allegri secondo me è un tipo di profitto, o meglio, avrei votato Allegri secondo me in assoluto, però io posso capire che abbia vinto Sarri, perché sicuramente c'è un'innovazione che ha portato ed è un segnale. Allegri non è una novità, Allegri è una conferma di anno in anno, e poi ha una squadra certo. Io però vorrei approfittare di Antonello Valentini, che per anni è stato il Richelieu della nazionale italiana, non mi quereli, no? Giusto, no, ho parlato bene, sei stato il Richelieu un servitore, un uomo di servizio. No, che uomo di servizio, il cardinale della nazionale italiana. No, voglio parlare di un argomento che i cardinali non diventano mai parte. Voglio parlare di un argomento che mi intriga tantissimo, questo della diaspora dei nazionali. Allora, Barzagli, motivi familiari, come si scriveva sul libretto delle giustifiche a scuola, motivi familiari. E quando si falsificava anche la firma dei genitori. Bravo, però. Ma motivi familiari perfettamente rispettati, aveva un impegno a cena con la famiglia, mi pare corretto. Higuain, ammonizione a orologeria. Pjanic esentato dall'amichevole con l'Albania, stesso discorso per Mandžukić esentato dall'amichevole con l'Estonia. Reina, forse infortunato, fotografato in pizzeria, resta valido quanto detto prima, è scritto da Crosetti, secondo cui Instagram vale per le superstar quindicenni. Koulibaly esentato anche lui da impegni della nazionale. Dani Alves, se non ricordo male, anche lui ammonizione orologeria. E come la mettiamo adesso? Allora, a me non piacciono le ammonizioni a orologeria, se così sono state. Io ho guardato soltanto la partita dell'Italia, il resto l'ho letto e lo apprendo da voi. Non mi piacciono le ammonizioni a orologeria e non mi piacciono le bugie. Preferisco quando uno viene esentato formalmente, ufficialmente, alla luce del sole. Chiaramente, bravissimo, sul caso Barzagli si è detta una bugia. C'è un comunicato della federazione che parla di motivi personali non meglio identificati. Era molto più normale, giusto e sincero e schietto dire la verità, che Barzagli c'ha 35 anni, che non ha diritto di riposare, che non avrebbe giocato in Olanda, non avrebbe giocato e che quindi tornava a casa. Punto. Uno deve assumersi la responsabilità delle cose. Il problema è non dire le bugie, perché le bugie, come si sa, hanno le gambe corte, fanno una brutta figura a tutti, compreso Barzagli naturalmente. Io sono per questa gestione, cioè si chiarisce con il CT, sappiamo bene, Pardo, cosa significano queste pause della nazionale, ci sono delle partite che contano ed è giusto ovviamente che lì ci siano tutti, quella con l'Albania era la partita. Adesso andiamo a fare un amichevole in Olanda, senza commissario tecnico, perché Blind, dopo aver fallito l'europeo, era arrivato a classifica già compromessa da Hiddink, ha fallito anche sta fallendo la qualificazione mondiale, esonerato. Insomma, è giusto andarci con una nazionale sperimentale per vedere quanto valgono i giovani, per fargli fare esperienze internazionali che ancora non hanno in questa nazionale promettentissima, ma sarebbe bello programmarle anche queste uscite, questi ritorni a casa, secondo me. Ma guarda, io ti dico una cosa, adesso mi dispiace, però se no te lo ragiono a Valentini in pochi minuti, tutto proprio questo della chiarezza. Quando è uscita la notizia del ritorno a casa di Barzagli per motivi personali, ci siamo anche spaventati. Ecco, istintivamente, siccome poi questi ragazzi più o meno, fratello molto più di me, ma li conosco tutti e li voglio anche bene, per quel bene che si vuole a delle persone che comunque trovi ogni tanto sulla tua strada e ti fai guerritate, quindi il primo pensiero è stato questo, no? Cioè, oddio, sarà successo qualcosa. Ci sta assolutamente che Barzagli a 35 anni salti l'amichevole contro l'Olanda, non sarà il test contro l'Olanda che serve a Ventura per capire quelle che sono le qualità di Barzagli. Devo dire che però, chiaramente, con Aleforte una partita così importante, con la cultura del sospetto che l'Italia è fortissima, questo alla fine è stato uno scivolone, è stato una gaffe, perché poi insomma è ovvio che questo è un paese di gente che pensa male e qui si è dato adito di poter pensare male. Poi, guarda, posso dire una cosa? Io, come avete ricordato, ho gestito per tanti anni la comunicazione della nazionale, certo, anche in situazioni molto complesse, qualche volta ci sono riuscito, qualche volta ci sono riuscito di meno, però bugie non ne abbiamo mai dette. No, ti dico di più, che in alcune occasioni, e secondo me andava fatta anche in questa occasione, noi abbiamo fatto delle doppie convocazioni. Le convocazioni per la prima partita e poi le convocazioni. Come è giusto per che sia, Antonello? Ma è giusto fare così? È giusto fare così? Si sconvocavano alcuni calciatori dopo la prima partita e si integrava il gruppo con altri calciatori o si rimaneva in 20, 18, 21, 22, quello che era. Ma parlando chiaro, e voglio anche dire una cosa, che secondo me è l'unico che non ha nessuna colpa in questa cosa è Barzagli, e qua nel 2006. Cioè, stiamo parlando di 11 anni fa, ha vinto i campionati del mondo, sembrava un giocatore vicino alla pensione, è andato in Germania dove ha fatto bene, è tornato in Italia dove sta facendo benissimo, è un ragazzo d'oro che non si è mai tirato indietro, quindi l'ultimo che può essere accusato di aver fatto il furbo è Barzagli. Il problema è la chiarezza che non c'è stata. Esatto, ma io infatti sono per la doppia convocazione. No, ma è un parere personale ampiamente condivisibile, che non penso ci sia nessuno che abbia da obiettare a questo. E mi sembra che perfettamente legittimo e corretto in questo momento l'idea della doppia convocazione, no Pardo? Cioè per la qualificazione mondiale allora chiami la squadra e poi chiami quei ragazzi che non vedono l'ora di mettere la maglia della nazionale, che hanno bisogno di fare esperienza internazionale, e allora ti tieni i Belotti, allora voglio vedere Donnarumma, voglio vedere Zappacosta, voglio vedere tutti quelli che adesso vengono anche contesi con l'Under 21, ed è bellissimo questo. Voglio vedere questi ragazzi in campo. Devo dire che Ventura da questo punto di vista è stato bravo, nel senso che è riuscito, soprattutto in una fase in cui finalmente si rivedono i talenti giovani nel nostro calcio, a organizzare degli stage, sono moltiplicati rispetto al passato, anche proprio perché ci sono questi ragazzi qui. È chiaro, è molto più facile andare a fare una trattativa con i giovani dell'Atalanta o i giovani del Torino piuttosto che con i big delle grandissime squadre. Quindi Ventura da questo punto di vista è riuscito a fare tanto. E questa è la partita perfetta per loro, è la partita perfetta per questi ragazzi di questa nuova generazione che si sta formando, ne hanno completamente bisogno, mentre per gente come Barzagli ovviamente è una, certo, non dico una scocciatura, ma comunque certo, una cosa che non, perché non è mai una scocciatura la maglia nazionale, però è certamente qualcosa di, no, ma poi, scusami, di meno importante. Ma poi, ripeto, anche dal punto di vista dei club, quello, la chiarezza della comunicazione, ma anche dal punto di vista dei club, anche dal punto di vista dei club, il Bologna, l'Atalanta, squadre, il Torino, squadre di questo tipo hanno volentieri cedono il martedì dei loro giocatori. C'è una valutazione anche economica. Bravissimo. Mentre alla Roma, al Napoli, alla Juventus, Napoli, Roma, Juventus, Inter hanno altri pensieri. Soprattutto se dopo hai Napoli-Juve, bravo, è chiaro che torniamo al punto di partenza, cioè che non contiamo niente per la riforma dei calendari, cioè sarebbe È tanto vero questo discorso sulla valorizzazione dei calciatori, che faccio presente che nella nazionale Under 21, che stasera gioca qui con la Spagna, ci sono adesso giocatori che sono titolari delle rispettive squadre di Serie A e di Serie B. Non è mai avvenuto prima di adesso questo. Quindi il lavoro che si sta facendo anche per portare su questi giovani è certamente un lavoro encomiabile, lusinghiero, e che può servire a Di Biagio in questo momento e a Ventura nel prosieguo. Io credo che da questo punto di vista la federazione stia facendo bene, abbia fatto bene anche nell'ottenere gli stage per i giocatori che seconde fasce, perché sono un patrimonio non soltanto della nazionale o del calcio italiano, sono un patrimonio delle società che le nazionali valorizzano. Bravo. Perché le esperienze internazionali, soprattutto per i più giovani, contano molto di più di una panchina in Serie B o addirittura di una tribuna in Serie scherzando, A. Ma stai scherzando. Grazie Antonello, ci sentiamo grazie molto presto. Buona grazie. Giornata. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie Antonello Valenti. Fino a te. Pardo, sai che siamo vicini al closing? Non l'avrebbe detto nessuno. Le notizie saranno arrivate anche dalle due parti. We are close to the closing. Close to the closing. Which kind of closing we will see? Adesso facciamo la trasmissione in inglese. Invece Montella parla in italiano. Quello che sarà una cosa molto più grande di me e di noi, e quindi aspettiamo gli eventi per poi poterli giudicare. Il tuo futuro sarà rossonero, sì. Contratto, quindi non c'è nessuna. Per quanto mi riguarda. Mi piacerebbe che te l'allungassero questo contratto. Vediamo cosa pensano poi, sì. Quel che sarà, sarà. Chissà cosa sarà. Tu cosa dici? Innanzitutto che Montella si è anche scritto e detto, insomma, sarebbe felice di allungare. E credo che sarebbe una mossa logica, ma io penso non sia, comunque, non sia in discussione, voglio dire, non, questo è uno scenario diverso, non è tra gli argomenti, non credo, nel senso che mentre l'Inter è più avanti nel processo di trasformazione, di cambio di società e di investimento, quindi lì con tutto l'affetto e soprattutto con tutta la stima del lavoro eccezionale che sta facendo Pioli, io posso anche capire che ci possano essere degli argomenti addirittura per accelerare prendendo un top manager a livello internazionale. Nel caso del Milan in questo momento la situazione è ancora abbastanza confusa. No, qui siamo al Milan, siamo al Pretoir, siamo al Pretoirico. Sì, siamo al Pretoirico, comunque al Toirico, di una società che si sta costruendo. Ma mancano pochi giorni. Se ci sarà un progetto forte, a quel punto le cose cambieranno. Ad oggi mi sembra che la filosofia dei giovani sia una filosofia giusta, e Montella, insomma, la conferma se la sta guadagnando sul campo. Ma strameritata la conferma di Montella, che io metto su, se, non l'ha messo sulla panchina d'oro, però io lo metto sul podio per come sta gestendo questa stagione difficilissima. Pierluigi, ci sentiamo domani. Senz'altro. Alle due, l'abbraccio. Ciao. Abbracci. Baci. Donato da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi spiace se ne sia appena andato Pardo, perché close to closing era un po' il mio close argomento. Close to closing, ma adesso guardi che abbiamo, un ospite che è molto più closer. Oggi stiamo parlando in inglese. Closer, che vuol dire vicino all'argomento closing di Pardo. Dica. Beh, comunque mia considerazione in realtà è molto semplice, che sia un'operazione alla Tuir è abbastanza evidente. La differenza però, per me che sono milanista, molto marcata e in me non molto positiva, è che Tuir l'ha iniziata con già i soldi di qualcuno, ma li aveva, anche se si è autofinanziato. Qui non ci sono, si sono recuperati, ma soprattutto la differenza marcatissima per me è una sola. L'Inter è stato comprato da Moratti per una cifra, se non vado errato, non lontana dai 300 milioni, qualcosa meno. Il Milan va via per quasi, tra debiti e spese, quasi un miliardo. Quasi un miliarduzzo, sì. Mi chiedo chi sia il folle che glielo ricompra guadagnandoci, cioè un broker non vende per beneficenza, non compra per beneficenza, per farci utile. Elliott non presta soldi per beneficenza, stiamo parlando di 300 milioni, operazione coordinata da Fassone e dall'avvocato Agostinelli, a trecentina di milioni di questa banca d'affari americana, che presta denaro all'11%. Allora, avvocato Giuseppe La Scala, rappresentante dei piccoli azionisti del Milan, ci dica lei. Buonasera a tutti intanto. C'è da dire quello che già molti hanno detto, e cioè che questa operazione mantiene una forte componente di incertezza per quanto riguarda il futuro. Abbiamo risolto quella relativa al closing vero e proprio, sembra che a metà mese finalmente il trasferimento delle azioni ci sarà. Dobbiamo ancora risolvere la vicenda del prossimo futuro. Da questo punto di vista registro con piacere che Fassone si è dimostrato un dirigente, un manager in grado di risolvere problemi spinosi, ha risolto anche quelli della proprietà, se è vero quello che i giornali dicono, e cioè che è stato lui il protagonista di questo trasferimento di fondi. Risulta. Se è così, vuol dire che Fassone è stato un ottimo acquisto da parte della cordata cinese. Adesso bisogna capire succederà dopo. Cordata cinese de che? Di cosa stiamo parlando? Ormai, cordata cinese, mi sembra appurato che non esiste. Monocorde. E quest'unica corda cinese è un broker. E quest'unica corda cinese è un broker, ma questo lo sapevamo sin dall'inizio. Esatto, però normalmente il broker, mi corregga se sbaglio, perché io non sono Sua Maestà Barisoni, ma il broker è uno che usa i soldi degli altri, giusto? È uno che usa i soldi degli altri, usa per i soldi delle banche e comunque opera in tempi stretti, non è certo interessato a una gestione di lungo respiro e a una valorizzazione negli anni, è interessato a operazioni più brucianti di norma. Solo che qui c'è il rischio che siano talmente brucianti da scottarsi, perché un broker naturalmente cerca di comprare bene e di vendere meglio. È unanime il sentimento di chi pensa che Yongong Lee non abbia comprato il Milan benissimo, nel senso che il prezzo richiesto e pagato non è modesto. No, quindi se vuole rivendere guadagnandoci dovrà fare un'operazione di turnaround particolarmente efficiente. Sì. Non è facile farla, tutto a debito e a questi tassi. Questo lo sa chiunque, insomma. Schiacciati da un tale debito, da tale esigenza di cassa, Milan la cassa non la produce, la brucia come il cherosene, insomma. Sì, non sarà facile mettersi nei panni di chi farà gestire il Milan. No, chiaro, anche perché appunto c'è di mezzo questa banca d'affari, banca d'affari americana, Elliott, che appunto è stata trovata, che ha presterà 300 milioni, e ha un tasso di interesse, ripeto, dell'11%, ed è lo stesso fondo di investimento che aveva investito sui bond argentini, poi investimento non è andato a buon fine, tanto che nuovo default dell'Argentina. Insomma, poi investono storicamente sul debito sovrano, mi sembra anche abbiano comprato il debito peruviano, sono una potenza internazionale di quella che muove anche politica internazionale. Esatto. Quindi possiamo essere tutti d'accordo, voi siete tutti d'accordo, tifosi e anche piccoli azionisti del Milan, siamo tutti d'accordo sul fatto che è un'operazione, possiamo sperare, per i tifosi milanisti alla Toir, cioè gente che arriva e poi cercherà di vendere al miglior offerente facendoci un affare. Solo che, come diceva prima giustamente, un conto è prendere l'Inter a 300 milioni e rivenderla a 600, certo, per dire, come a Suning, come ha fatto Toir. Un conto è comprare il Milan a grosso modo 1 miliardo. Eh sì, perché il Milan costa 720 milioni tra acquisto e debito e poi 350 milioni di investimenti da contratto. Rivendere guadagnandoci non è sicuramente semplice, soprattutto non è semplice se lo puoi fare con tranquillità, perché è ovvio che se le condizioni sono queste il debito di Yongong Lee non potrà essere restituito con i normali flussi di cassa, deve essere restituito rivendendo. Quindi a questo punto c'è il rischio che i compratori si mettano sulla riva del fiume e aspettino di comprare quando, diciamo così, il nostro amico sarà più sofferente, esattamente come gli hanno prestato i soldi nel momento di massima sofferenza. Certo, certo. Era segnata questa cosa. Se Yongong Lee non voleva perdere le caparre e voleva gettare la palla avanti sperando che qualcosa succeda di buono in un prossimo futuro, doveva mettersi nelle mani di chi a questo punto i soldi glieli presta a caro prezzo. Come era naturale che finisse col tasso dell'1,5%, certo, che non è propriamente un tasso che in Italia si direbbe di mercato. Anzi, no, non è di mercato, Italia si va in carcere con tassi del genere. Bravo, negli Stati Uniti è il limite superiore, cioè il limite legale superiore di tasso di interesse. Grazie avvocato, ci sentiamo presto. Grazie avvocato, ci sentiamo presto, e grazie cari amici convocati ascoltatori, ci sentiamo presto. Quando? Domani alle 14. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.